Eccoci qua, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, sono le 8 e 22 minuti. Liberalizzazioni, una parola che è davvero urticante, almeno per i nostri amici tassisti. Ecco, dico amici così. Claudio Giudici, buongiorno. Buongiorno a voi. Claudio Giudici è un tassista, presidente di Uri Taxi Toscana. Dico amici così, la metto in una condizione. So che ci ascoltate tantissimo. Radio 24 è molto ascoltata. Senta però, questi toni, occuperemo l'Italia, ne vedremo delle belle, se il governo prova a liberalizzare i taxi sentirete cosa succede. Lei addirittura ha scritto al Financial Times, che ha pubblicato una sua lettera sfogo, ma non state anche voi esagerando, adesso anche lo sciopero. Ma senta, qui ci sono delle famiglie molto molto preoccupate, 60.000 famiglie che vedono a rischio il proprio futuro dopo essere venute da 4 anni costanti di crisi, e le previsioni non sono certo migliori, no, per quello che ci attende per questo 2012. C'è anche una questione di dignità da parte di questi lavoratori, ossia a parer nostro ci troviamo di fronte a una vera e propria operazione di distrazione di massa. Si parla di tutto fuorché del vero problema. Guardi che in realtà si parla, oggi sui giornali, lei avrà letto, si parla di liberalizzare i notai, i farmacisti, il sistema dei trasporti, esatto, ferroviari, cioè di tutto, atto, non è che... Ha ragione, è in atto un attacco contro il mondo del lavoro e della produzione in generale. È questo che io ho denunciato al Financial Times. Cioè liberalizzare è un attacco al mondo del lavoro, secondo me. Esatto, è un attacco... Perché i dati ci dicono il contrario: le liberalizzazioni creano precarietà costante, l'iperconcorrenzialità che vogliamo instaurare. Questo regime è già un problema che si è visto tra fine 800 e primi 900, addirittura denunciato. Ma guardi, adesso mi scusi, lei fa... Ricordi la Rerum Novarum, però, ricordi la 400° anno. Vabbè, però mi scusi, liberalizzare almeno nelle scuole viene insegnato che serve a far abbassare i prezzi per i consumatori. Che ne so, si liberalizzano i farmaci nelle parafarmacie per far abbassare il prezzo dei farmaci, di alcuni farmaci. L'evidenza empirica ci dice il contrario. Lo studio della CGA di Mestre, quello recentissimo per esempio, ci dice che in Italia, ma non è soltanto un problema italiano, non ci facciamo prendere da esterofilia, in Italia dal 94 ad oggi tutti i settori liberalizzati hanno visto addirittura aumenti rispetto all'inflazione, anche 4 volte superiori rispetto al tasso di inflazione. Purtroppo, diceva qualche giorno fa il professor Brancaccio dell'Università del Sannio, non esiste alcuna evidenza empirica che le liberalizzazioni portino a abbassamento delle tariffe, anzi, essendoci il problema dei costi fissi di gestione, più creiamo concorrenza tra i settori e quindi riduciamo i margini di guadagno, e più gli obblighiamo ad aumentare la tariffa, il prezzo di erogazione. Questo, giudici, però, e questa è filosofia economica. Dato di fatto che oggi anche il professor Leon a Roma, che gestisce un'agenzia per i trasporti a Roma, dice: a Roma, so che lei è di Firenze, però a Roma è forte l'Uri Taxi come lì in Toscana. Se si vuole andare in periferia non c'è un taxi per andare, le tariffe sono alte, cioè una cosa molto concreta. Ha ragione, con le liberalizzazioni ci sono più licenze. Il procedimento proprio contrario: se noi liberalizziamo il settore, per esempio togliamo il principio di territorialità come voleva fare il governo, cosa succede? Si va tutti dove c'è il miele, dove c'è la crema, e la crema è nei centri cittadini, si spogliano ancora di più le periferie, cioè tutto il contrario che lo ci stanno raccontando. Ma perché ci sono più licenze, io se sono un nuovo tassista magari vado a mettermi nel settore di mercato delle periferie dove nessuno c'è e guadagno... Ma mi scusi, prendiamo la tanto decantata New York, il servizio taxi newyorkese funziona soltanto a Manhattan, dove c'è la crema. Nelle periferie non funziona il servizio taxi newyorkese. Infatti, quando ci si immagina lo stereotipo della città tutta gialla, no, non è la città di New York tutta gialla, è Manhattan. Il cuore. Vabbè, ma lei che ha scritto al Financial Times? Che ha scritto in questa lettera che le hanno pubblicato? Il cuore di questa lettera cos'è? Il cuore di questa lettera, in sostanza, è quello che ieri ha denunciato Mucchetti sul Corriere della Sera, riprendendo il libro appena uscito del presidente emerito Carlo Azeglio Ciampi, il quale ci sta dicendo: la finanza ci sta rubando il futuro. Cioè, qui si parla di tutto fuorché il principio di separazione bancaria da reintrodurre anche in Italia, lo standard Glass-Steagall, di modo da consentire alle banche di affari di poter fare speculazione senza essere salvate dai soldi dei cittadini, e alle banche di deposito di poter finanziare le imprese, le famiglie, e allora qui è legittimo anche il salvataggio da parte dello Stato. Ma lei giustamente parla di banche d'affari. Se non lo sapete, Giudici credo sia laureato in che cosa? Tassista? In legge. Sento anche un eloquio, mica male, voglio dire, ma più terra terra, servono più taxi per esempio a Firenze oppure no? Nella maniera più assurda, il servizio taxi, per dire, fiorentino è eccezionale, è un fiore all'occhiello fra l'altro a livello italiano, ma il servizio taxi italiano è ottimo. I cittadini che dicono, non so, a Milano quando piove non si trova un taxi, che sono tutti ammattiti oppure c'è un qualcosa che... ai cittadini non dobbiamo pensare che sono la maggioranza, insomma sono poi gli utenti. Ha ragione, ma infatti i nostri dati, sia quelli di indagine interna delle società cooperative, sia quelle comunali, a Firenze c'è stata un'indagine comunale recentissima di questa primavera che ci dice che il 90%, l'88,6 per la precisione, della cittadinanza fiorentina è contenta del servizio, perché noi evadiamo per esempio circa il 92% delle corse nel giro dei 3-5 minuti. Ma evidentemente infatti il problema è più magari nelle grandi città, no? Cioè non che Firenze non sia grande città, ma nelle Roma, Milano, Napoli. No, Milano, per dire, il servizio di Milano è eccezionale, ma anche il servizio di Roma per esempio, il 3570 è un modello d'eccellenza. Addirittura recentemente esponenti del TLC, la Taxi and Limousine Commission, sono venuti a studiare il modello del 3570. Ora, a Roma non è che non funziona il servizio taxi, a Roma non funzionano tante cose. Quindi non... senta, l'idea, non partite prima da qui, cioè dai taxi per liberalizzare, e poi mi spieghi questo sciopero, cioè che succede il 23 gennaio? Che fate? Non vi si trova più... Uno cerca il taxi? Esattamente, sarà uno sciopero a tutti gli effetti, ci saranno delle problematiche. E quando si dice siamo pronti a fare chissà cosa, che siete pronti a fare? Allora, è ovvio, la categoria dottor Milan è esasperata. Non è un caso che ieri a Napoli, nonostante la decisione presa dal parlamentino sia stata altra, a Napoli dei colleghi non hanno resistito, non ne possono più, sono alle barbe, come si dice. E addirittura, cioè, avere davanti la prospettiva di una liberalizzazione selvaggia del settore che noi sappiamo benissimo avvanteggerà soltanto i grossi oligopoli, l'entrata di quelli che noi chiamiamo gli squali della finanza anche in questo settore. Ma perché lei c'ha questa menina? Per carità, molti, tutti dicono Monti, no, ci sono altri che dicono Monti protegge la finanza, ma cioè, più terra terra non è più taxi e più opportunità per i cittadini di trovare un taxi e quindi magari anche tariffe più basse, volando un po' più basso dell'alta finanza? No, invece, mi scusi dottor Milano, dobbiamo volare alto, altro che basso. Qui ci tengono bassi apposta, per non parlare dei veri problemi dell'Italia. E ripeto, il vero problema in questo momento dell'Italia, dell'Europa, del sistema occidentale è la finanza. Il rapporto Angelid negli Stati Uniti sta facendo luce. Noi abbiamo bisogno di un nuovo Franklin Roosevelt in Italia, non di Adam Smith. Non liberalizzazione. Nella maniera più assoluta, è un disastro. Porterà delle dittature anche. Va bene. Questo spero proprio di no. Però la richiameremo, Giudici. Tanto da qui al 23 ci risentiremo. Avete sentito che eloquio il nostro presidente di Taxi Toscana. Grazie per essere stato con noi, Claudio Giudici. Grazie a voi. Allora, taxi sul piede di guerra, si usa sempre questa espressione, sta di fatto che ne vedremo delle belle da qui al 23 gennaio, questo tema liberalizzazioni fa molto molto scaldare gli animi. Va bene, noi credo che gli animi oggi saranno scaldati anche in Parlamento, dove alle 12 si discute il caso della richiesta di arresto della Procura di Napoli per l'onorevole Cosentino, ex sottosegretario all'economia del Popolo della Libertà. Il tema è sempre quello, immunità parlamentare, perché un cittadino può essere arrestato, un parlamentare no. Insomma, ne parleremo tra poco, anche col vostro parere. 800 24 00 24 24 mattino. Alle 8:35 minuti, allora, che deciderà oggi il Parlamento sulla richiesta di arresto per l'onorevole Nicola Cosentino, ex sottosegretario all'economia del Popolo della Libertà? La richiesta di arresto della Procura di Napoli. Cosentino, in pratica, è accusato di aver fatto, di aver agevolato l'apertura di un credito di 5 milioni di lire presso una filiale Unicredit per un imprenditore, poi che per la Procura si è dimostrato vicino ai casalesi. E per la Procura di Napoli, Cosentino sapeva, nel fare questa azione, a chi andavano questi soldi. Ma comunque il tema è sempre il solito quando si ripropone una richiesta di arresto per un parlamentare. Qui c'è anche un dilemma politico che vede la Lega sicuramente con in mano il pallino del gioco dal punto di vista dei voti. Intanto ne parliamo con due parlamentari che saluto, l'onorevole Nunzia De Girolamo, ben ritrovata, del Popolo della Libertà, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei. E saluto l'onorevole Gianluca Bonanno della Lega Nord, buongiorno e ben ritrovato anche a lei, Bonanno. Buongiorno. Prima però lasciatevi salutare, lo ringrazio, il magistrato Raffaello Maggi, buongiorno dottor Maggi. Salve, buongiorno a lei e agli altri ascoltatori. Nel Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il dottor Maggi è l'estensore della sentenza più storica contro il clan dei Casalesi, la sentenza Spartacus, quella che ha portato a grandi condanne e ha sgominato gran parte dei Casalesi. L'abbiamo chiamata, dottor Maggi, perché ieri un deputato, l'onorevole Turco dei Radicali, ha detto: io vorrei sapere da dottor Maggi in persona, colui che conosce bene questa vicenda, la vicenda dei Casalesi, perché per esempio nella sentenza Spartacus Cosentino non è mai citato. Allora ci dia qualche lume sulla vicenda. Beh, sarebbe un po' lungo spiegarne insomma tutte le ragioni, visto che la sentenza Spartacus racchiude un arco temporale molto, molto ampio, di circa 10 anni, fino al 1996, diciamo, si chiude. Semplicemente la risposta formale, diciamo, è perché l'onorevole Cosentino insomma non era imputato di quel processo e quindi ovviamente i giudici di quel processo non potevano certo pronunciarsi o parlare di un soggetto che non era, diciamo, nell'elenco degli imputati, ovviamente. La risposta sostanziale è perché il processo Spartacus ha preso in esame le fondamenta del clan dei Casalesi, soprattutto, diciamo, il suo aspetto militare, il momento in cui sono stati fatti gli omicidi che hanno radicato il potere di intimidazione del clan dei Casalesi nel territorio, e ha preso in esame una fase di collegamento con l'imprenditoria, in particolare con il settore del calcestruzzo, del Movimento Terra. E in quella fase evidentemente insomma non sono ovviamente emersi elementi che potessero portare al coinvolgimento di esponenti politici, diciamo, tra cui, certo, appunto l'onorevole Cosentino. Quindi lì non c'era, perché in quelle indagini non c'era, ma lo stesso onorevole Turco dice non è mai citato neanche, diciamo, lateralmente nelle indagini, così come non è mai citato in Gomorra, almeno io adesso non l'ho riletto, ma non è mai citato, non è un protagonista nel celebre Gomorra di Saviano. E questo fa nutrire dei dubbi allo stesso onorevole Turco. Può essere una giustificazione per un parlamentare per avere dei dubbi sulle carte della Procura di Napoli? Ma guardi, io penso che quando c'è una richiesta insomma di misura cautelare e di arresto che riguarda un parlamentare è sempre un momento grandemente delicato e direi quasi drammatico, insomma, perché io sono il primo a essere preoccupato quando una persona che rappresenta la nazione, perché ogni parlamentare rappresenta la nazione, viene incriminata, insomma, e se ne chiede, diciamo così, addirittura l'arresto. D'altra parte penso che se si arriva a questo vuol dire che ci sono degli elementi di conoscenza che sono emersi e che hanno fatto, diciamo, molto preoccupare, diciamo, i magistrati che se ne sono occupati, insomma. Quindi ovviamente insomma, io non me ne sono occupato, ma ho motivo di ritenere che una serie di conoscenze gravi insomma siano venute fuori, altrimenti non si arriva a chiedere una cosa del genere. Le chiedo anche questo, in linea di principio, lei da magistrato che ne pensa della quella che prima era l'immunità parlamentare o l'autorizzazione a procedere? Cioè alcuni cittadini dicono: perché un cittadino normale, se fosse un cittadino normale nel senso non parlamentare, Cosentino sarebbe già stato arrestato, mentre per un parlamentare c'è questa prerogativa per la tutela del suo ruolo. Lei che ne pensa, è giusta? La prerogativa di per sé è giusta perché è collegata a una sorta di immunità funzionale. Il parlamentare deve avere la libertà soprattutto di parlare e di dire quello che pensa su tutto e su tutti senza correre il rischio di essere incriminato per questo. Cosa molto diversa secondo me è quando, diciamo, purtroppo dalle attività di indagine vengono fuori fatti, circostanze che non hanno, diciamo, di per sé a che vedere con la libertà di espressione, con la libertà di pensiero e con tutte quelle immunità funzionali che devono aiutare il parlamentare a fare bene il suo lavoro. Ecco. Allora, se può, rimanga ancora qualche minuto, so che la dobbiamo liberare prima, però vorrei sentire intanto l'onorevole Nunzia De Girolamo. Intanto ha sentito Cosentino di questi tempi? Lei, tra l'altro, è campana della stessa regione. Sì, visto alla Camera ieri. Lì. Cioè, qual è il clima? Perché sa, pare che la Lega, adesso chiederemo a Buonanno, ha in mano il pallino dei voti. Ma quale vuole che sia, quando una persona rischia, indipendentemente dal merito della questione, di andare in prigione, soprattutto sulla base di una scelta politica di un gruppo e non di merito o di fumus persecuzioni? Sì, ho ascoltato il dottor Maggi, distinguerei ovviamente, con tutto rispetto per chi scrive come Saviano, le indagini fatte dal dottore e ciò che scrive Saviano in Gomorra, al di là degli studi che li distinguono e li caratterizzano, una cosa è fare l'indagine, una cosa è scrivere un libro, quindi c'è una certa differenza nell'essere presente o meno in Gomorra e in un'indagine di camorra fatta anche insomma con una certa serietà e con un impegno, con rischi. Vivere in campagna non è facile, non è facile nemmeno essere magistrati in campagna. Però il dottor Maggi ci ha detto quella è un'inchiesta che non ha riguardato Cosentino, però se la procura di Napoli arriva a chiedere l'arresto, evidentemente qualche avranno in mano, certo, qualcosa, insomma, perché sennò uno non certamente chiede. Certamente un magistrato coscienzioso come un avvocato, un qualsiasi cittadino, pensa esattamente questo. Lo strumento della carcerazione preventiva, che forse in alcuni casi è un po' abusata proprio quando si tratta di parlamentari, è da usare con un certo, con una certa attenzione, con buon senso, con responsabilità. È chiaro che un magistrato responsabilmente fa un'affermazione di questo genere. Io da parlamentare non entro nel merito della questione, ho letto le dichiarazioni di Turco e chiaramente non essendo della nostra parte politica i suoi interrogativi lasciano riflettere, così come quelli di Paolini che è rappresentante in giunta della Lega. Altrettanto della Lega, sì. Ritiene che non ci siano elementi, ma al di là del merito noi ci dobbiamo occupare del fumus persecutionis. Io mi sono riferita oltre a leggere le carte, ma che la qualcosa mi porterebbe comunque nel merito, e non è mio compito. Io in questo momento faccio il parlamentare, non il giudice. Sono il giudice a dover giudicare a seguito di un processo. Io mi attengo a quanto i miei rappresentanti in giunta mi dicono. Se ritengono che ci sia fumus persecutionis nei confronti dell'onorevole Cosentino o di qualsiasi altro deputato della Repubblica, è evidente che io mi esprimo con il mio voto in un certo modo. Il PDL così ritiene, infatti il PDL ovviamente chiede, respingerà. La Lega meraviglia, e io c'è cioè il collega dall'altra parte, io tra l'altro ho ottimi rapporti con i rappresentanti della Lega. Mi meraviglia innanzitutto perché rispetto alla prima richiesta d'arresto, che sembrava anche differente rispetto all'attuale, la Lega si è pronunciata salvando l'onorevole Cosentino. Cioè sembrava più grave quella. Essere giusto. Oggi cambia posizione. Cioè io. Ma non si capisce neanche tanto, ma chiediamogli Buonanno, perché Maroni è per l'arresto. Bossi ieri ha detto libertà di coscienza. Intanto ci dica, lei nella sua libertà di coscienza ha già deciso? Guardi, come diceva Nunzia, di cui ho una profonda stima, oltre che è veramente una deputata in gamba, penso che un problema serio ci sia proprio nel fatto che in Meridione è difficile fare politica senza dover parlare o avere dei rapporti con persone poco, tra virgolette, piacevoli. È ovvio che se uno fa il raffronto, ad esempio, con chi abbiamo in trasmissione, cioè Nunzio Di Girolamo, è logico che invece persona solare, tranquilla, che ti dimostra in maniera palese com'è, non hai alcun dubbio. Io non ho alcun dubbio, cioè io vedo una persona come lei. Nei confronti lei di Cosentino, e gli darei in mano il portafoglio. Di Cosentino? Di Cosentino io non ripeto, non lo conosco, al limite gli posso dire ciao, ma Ho capito, ma tra qualche ora dovrà chiedere dovrà votare se lo vuole vedere in carcere oppure no. Sto facendo un discorso, secondo me, anche veramente da uno che non frequenta il Parlamento. Cioè io sono entrato in Parlamento nel 2008, perché prima non ci sono mai stato, e facendo il sindaco, quindi abituato a stare in mezzo alla gente, da quando sono entrato in Parlamento ci sono alcune persone che sono chiacchierate, tra queste alcune persone c'è anche Cosentino per tutta una serie di questioni. Sì. Se oggi questa situazione riemerge un'altra volta e nel gruppo di cui mi onoro di far parte vi sono dei forti dubbi su quello che è la è stata la vita o comunque i rapporti di Pino, anch'io mi pongo dei dubbi, no? Rimanga un attimo con i dubbi, poi guardi che glielo richiedo, me lo deve dire prima della fine della trasmissione cosa vota. Però nel salutare Maggi, dottor Maggi, nel salutarla, ha sentito buon anno l'onorevole della Lega che dice non è difficile fare politica al sud senza avere rapporti con persone un po' poco chiare. Mi dia una considerazione finale su questo prima di lasciarci. Sì, al sud è difficile per la verità fare un po' tutto, insomma, fare il politico, fare il magistrato, fare il professionista, perché chiaramente ci sono delle realtà molto complesse e delle pressioni su ciascuno di noi. Io credo che per migliorare comunque la nostra condizione, il nostro dovere assoluto è quello di resistere a tutte queste pressioni, perché se non si cambia mentalità, modo di agire, e anche se non si pensa che il progresso deve essere collettivo, non deve essere legato a piccoli gruppi, a piccole realtà che aggregandosi intorno a Tizio, intorno a Caio migliorano mentre gli altri restano dove erano. Ecco, se non si cambia questa mentalità, a prescindere da ciò di cui stiamo parlando non si va da nessuna parte, questa è la mia idea. Allora io ringrazio Raffaello Maggi, giudice a Santa Maria Capua Vetere, ci fermiamo il traffico e poi continuiamo con l'onorevole Nunzia Di Girolamo e l'onorevole Gianluca Buonanno. Strade in diretta. Il traffico resta intenso attorno a tutte le grandi città per un incidente, le code in tangenziale a Pavia in direzione della statale dei Giovi. Si è da poco verificato un incidente anche in Liguria, sulla 12, la Genova-Livorno all'uscita di Rapallo, e c'è un incidente sulla superstrada Firenze-Pisa-Livorno in direzione di Firenze tra Vicarello e Lavoria. A Roma la chiusura di Viale Agricola si è resa necessaria a causa di una manifestazione. Persiste la nebbia tra Bassa Lombardia e Veneto, dobbiamo segnalare nebbia in banchi sulla 13, la Bologna-Padova tra Occhiobello e Rovigo, e sulla 22 del Brennero tra Verona e Pegognaga. Noi torniamo tra un'ora. Allora, alle 8:47 minuti, adesso è caduta la linea con l'onorevole Buonanno, ma lo recuperiamo. Onorevole De Girolamo, dicono i rumors della Camera che se dovesse passare l'arresto, Berlusconi è pronto a dire qua rivediamo tutto, anche il sostegno al governo, Monti, insomma, ecco, ci siamo capiti, rischiamo di far cadere tutto. C'è questo rischio? Ma mi pare che abbia già smentito i rumors di altri soliti sul presidente Berlusconi, si è pronunciato in questo senso e non è nel nostro stile dare una sorta di epilogo sulla base di un voto come questo sull'onorevole Cosentino. È evidente che Berlusconi sul tema è sensibile, che è un garantista e che ritiene in questa fase che un atteggiamento oggi sulla pelle di una persona, sulla base di un pregiudizio, io ho ascoltato quanto ha detto Gianluca, per il quale ho la stessa stima, una stima reciproca e un'amicizia, però non possiamo votare sulla libertà di un uomo soltanto perché si ha un pregiudizio sulla sua vita, sui suoi rapporti o perché è una persona chiacchierata. Ma magari perché qualcuno ha letto le carte, cioè nel senso c'è anche chi avrà letto le carte e avrà avuto una condizione, si sarà fatto un'idea diversa dalla sua, per esempio. Io penso solo questo, leggere le carte ed ascoltare chi in giunta ci rappresenta, perché sta lì effettivamente per questo ruolo. Penso che in questi casi, entrando anche un po' la coscienza, anche un atteggiamento individuale, sia giusto non ascoltare gli ordini di scuderia. Io solitamente su temi etici o che riguardano questi casi faccio più che altro come ritiene la mia coscienza e come è il mio convincimento personale. Quindi io ai colleghi chiedo solamente questo atteggiamento in generale, di essere poi non mi permetto di giudicare il voto di una singola persona. Ma no, ma anche perché poi sarà un voto probabilmente segreto, non so, nel segreto del lui. Però onorevole Buonanno, Nunzia Di Girolamo dice la Lega stupisce, cioè c'è stata già una richiesta d'arresto per Cosentino e la Lega l'aveva respinta. Adesso cosa dovrebbe succedere? E poi ci dica anche, insomma, lei che vota? Si è fatto un'idea? Prima mi dica se si è fatto già un'idea, senza dirmi se sì o no. No, guarda, Beh, tanto non è che siamo all'asilo, io non è che sono, vengo alla sua trasmissione perché mi fa piacere, la stimo. E quindi non sono qua a dire mi nascondo oppure non accettavo l'invito e così non avevo neanche il problema di rispondere. Ma chi lo mette in dubbio questo? Cioè? No, dico, però mi dica un po'. Ma no, mi dica cosa vota. Parlo con mio figlio. Ma no, ma mi dica cosa vota. Cioè, nel senso, vabbè, ma mi dica cosa vota, non è che pensava che non gli avessi fatto questa domanda. Se stamattina non ci saranno delle cose che mi faranno cambiare un po' idea, io voto per l'arresto. Lei vota per se cosa può succedere per farle cambiare? No, perché idea? Se stamattina comunque ci sono delle come dire, se vengo a conoscenza, perché mi interesserò ulteriormente, ci saranno delle informazioni o delle, come dire, delle considerazioni fatte da chi in maniera più approfondita, come si può dire, mi spiega delle cose ulteriori che io oggi non so. Cioè, chi magari ancora valutare, ma a stamattina se io dovessi votare tra 5 minuti voto per l'arresto. Cioè, per farmi capire, lei parlerà con i due colleghi della Lega che erano in giunta, che magari hanno letto. No, non che... solo. Non solo, però ovviamente è una cosa, come diceva giustamente Nunzia, personale, quindi la Lega lunedì aveva preso una decisione. Adesso c'è libertà di coscienza, io come tutti abbiamo una coscienza, in questo momento io voterei per, anche perché mi viene anche in mente, e non c'entra niente con quello che sono le considerazioni su quello che dice la magistratura, che comunque Cosentino all'interno del PDL è stato veramente molto discusso, non lo volevano come responsabile regionale dicendo peste corna, quindi io sono un po' stupito del fatto che adesso tutto il PDL difenda Cosentino, quando alle regionali del 2010 mi ricordo, e anche successivamente, che ritenevo tra virgolette vergognoso avere un rappresentante regionale di questo genere. Tra l'altro, non lo sto dicendo io, mi ricordo quello che sentivo. Tra l'altro, poco fa Cosentino è intervenuto a Canale 5, ha detto sono sereno, tranquillo, consapevole di essere completamente estraneo ai fatti, e poi sulla questione del voto ha detto non so se ci sia uno spiraglio o meno dopo le dichiarazioni di Bossi, ma confido molto nella libertà di coscienza di ogni parlamentare. Questo ha detto poco fa Cosentino. Onorevole De Girolamo, siccome è appunto che sia chiacchierato, lo sappiamo, insomma, è sulle prime pagine di giornali da tempo l'onorevole Cosentino, lei metterebbe la mano sul fuoco per il suo collega parlamentare? Ma guardi, io non la metto su nessuno la mano sul fuoco, giusto su me stesso. C'è il cellulare che è un po' no. L'abbandonata. No, miglioriamo un attimo la linea, perché il cellulare, fatemi sentire allora intanto Giuseppina da Roma, un'ascoltatrice, 800 24 00 24. Giuseppina, buongiorno. Dica. Buongiorno, io sento la sua trasmissione con grande piacere, e ascoltando questo che dicono i nostri cosiddetti governanti passati, presenti e futuri, e mi sembra che se si vuole ristabilire un po' di legalità populistica, non è il caso di mandare avanti questi sistemi dove esprimono sempre più furbizia, una mentalità bizantina, e che inculca nel popolo che chi è più furbo la vincerà, chi ha più amici, chi si sa più difendere, perché in fondo, a partire dalla Lega che fa tanta, che non so cosa voleva dare al suo popolo, ma alla fine gli ha dato soltanto che ha salvato quei quattro che sulle quote latte, tutti quelli onesti che hanno. Vabbè, ma le quote latte in questo caso non c'entrano, però le quote latte. No, le voglio dire che un governo, oltre alle parole di quando va all'opposizione che all'improvviso scopre tutto quello che farebbe, dovrebbe prima elencare quello che poteva fare, che assolutamente non ha fatto. Ma Giuseppina, voglio concludere con lei, per rimanere nel merito, perché quote latte, dovrebbe essere, dunque la Costituzione diceva, dice che il parlamentare in casi di guerra, in un momento difficile del paese, devono essere tutelati, non possono andare sotto processo. Per quello che dicono, in casi di guerra. Prima c'era l'immunità parlamentare. No, scusi, prima c'era un articolo sull'immunità parlamentare, è stato modificato dopo Tangentopoli. Ma è stato peggiorato, perché poi quattro amici, mi sembra di stare veramente in quattro angoli della mafia. Cioè, lei sta dicendo, Giuseppina, che vede una casta che si difende quando c'è una richiesta contro il popolo e dà un esempio. Ma il popolo non è che deve giudicare, non è che c'è il popolo contro i politici, però, perché questo è un po' populistico e pericoloso. Quando io vado a votare, se lei me lo presenta diversamente, sì, e quando io poi pago la finanziaria, quando la gente deve stare 10 anni di più al lavoro, cosa pensa che ha pagato? Ho capito, ma mica il popolo deve giudicare. In ogni caso, Giuseppina, concludo con il suo sfogo. Ringrazio tutti, l'onorevole Nunzia De Girolamo e Gianluca Buonanno. Vedremo se succederà qualcosa questa settimana, questa mattina, per farle cambiare idea. Niente, dobbiamo chiudere? Sì, tra 3 secondi, 2, 1, a domani.